aspettato questa Pionzava, che è stata trovata lavorata, poi c'è stato Costantino Garau, che aveva, mi pare, che un fara, che trovava un fara, che lui lavorava con... C'è stato Luigi Tanca, ma c'è stato pochissimo, Sandro, Caino, c'è stato noi, un amico travagliente, un periodo infatti lo dopo da Razzaras, dell'85, è stato dell'86, forse 87 pure usato, infatti è no, 85 è stato usato, ha recommendato proprio che la guida. Ascione, c'è stato Sandro Ascione, conosce Sandro Ascione. C'eravamo tutti assieme di abitava lì nella discesa di Vietto Vessacchi, in casa popolare che ci sono voce dei fornitori di Luria. Ma Sandro, quando è uscito dalla comunità, è entrato con voi o con la vita di isole? E la impresa è entrata da voi, da voi se ne è andato da noi, è entrato la vita isole. È stato un periodo con Suggio, Sandro, e poi è... entrato, no, forse Caino è entrato poi a Dabu e Sandro che è entrato nell'85. L'85 è Sandro che è entrato con noi, però è stato poco Sandro Ascione, se l'ha avviato subito e se n'era andato. E ma sono tutti fatti la fiacca, Isida, hanno qualche anno, mi pare più di me, non so, 51, 52, ma sono tutti fatti la fiacca, vabbè Sandro sì, Sandro solo la Italiso, sì, un socio, e poi con la Italiso, Sandro Caino invece non aveva problemi, lui non ha voluto seguire le cose del padre, si tengono i trasporti, però già era una persona, non so, ci siamo sentiti e visti da poco, si è buttato via da Luciano, non c'è più. No, ha licenziato tutto il ciao, vabbè, insomma. E con cosa? Con Mauro, te l'ho detto il giorno, con Mauro, che domino lì dove sono tutti i tatuaggi, con lui stavo, sono tutti entrati, adesso è entrato, per esempio, Tommaso Cima, Peppe Caffettiera, è entrato pure Costantino, ma i sedini, Costantino Sava, di Puttutorra, che lavorava in proprio, poi anche lui era con Luciano ultimamente, lo conosce a Costantino sicuramente, lo conosce, il Puttutorra, se abita in via Ettore Sacchi. Ecco qui sta lavorando con Mauro, quello che era in fondo seduto, ma che metteva il cianciami uguale a quello di Iuri. Sì, ma rosso però, Mauro Profondo Rosso, lui c'era rosso, Mauro Profondo Rosso, lui sta lavorando, stanno lavorando tutti i Peppe Caffettiera, Tommaso Civa, Sandro Caino, ha preso a Costantino adesso, Costantino Sava, sono tutti con nella ditta di loro, dai, del padre, del fratello, sono tutti, stanno lavorando lì, sempre tutti con loro a lavorare. Cosa si occupa? Cosa? Cioè, cosa sono? Vieni in continente o viaggiano o qua in Sardegna? Perché Sandro è molto assente, prima lo sentivo spesso, adesso no, qua in continente ci sono altri autisti, ritirano i rimorchi, li imbarcano qua e li ritirano, loro sono qua a Porto Torres e niente, adesso ho visto che stanno facendo da stanno venendo la mattina presto qua a Porto Torres, però un sacco di giorni fanno uno scambio abbastanza dei rimorchi, capito? Partono uno e due, parte Sandro e Coso e Costantino che hanno giunto l'altra autista e arrivano fino a metà strada, hai capito? E danciano il rimorchio e loro gli hanno l'altro carico a imbarcare, capito? A Polo Torres. Ho capito, vabbè, ognuno c'ha il suo, diciamo, quindi già va bene. Comunque in quegli anni lì le ditte di trasporti erano poche, sono quelle che hai nominato tu, le cisterne c'erano quelle di Terrosio, l'Ambrosiana, Noce, la questo di nome, Terruso non la via Zecchini, la via Ricorso, Terruso. Zecchini la via Doppio, dove era oltremare la Doppio S.P.A. prima, lui ce l'aveva la cisterna, capito? Ce l'aveva la cisterna e Casolanti, Doppio S.P.A. era Doppio S.P.A. E già quando sono entrato io facevo una cosa sul continente e avevo via un po' di trattori, perché lui è proprio quando era proprio il progetto dell'INI che lavorava a Strautana, produttore e via dicendo, avevo 87 trattori, mi dubbio. E avevo fatto una società insieme con Terruso e Pupo Troffa, e avevo un traghetto mi qua da stare il primo produttore, se mi mancava nei rimorchi paesi. Peppino Terruso, che è il compare di Doppio dell'Oltremare, e hanno fatto una società, Troffa, della Perone, infatti della Perone da Napoli, da Corso compreso, e lui c'aveva l'esclusiva della Perone, Pupo Troffa, capito, qua in Sardegna, la Perone aveva Pupo Troffa, sinceramente, invece tuttora Pupo Troffa e Chivi, vicino a Falchetto, vicino a Ippodramo, sotto e Chivi. Ma chi ancora vivo è Pupo Troffa? Di Peppino Terruso sì, c'aveva il deposito lì giù in via Torre Sacchi, dove vicino all'ex deposito della Scena, lì c'era delle cisterne lui. Ma Pupo Troffa chi ancora vivo è? Ma questo è vivo che giunge da poco, qualche anno fa l'ho visto, però adesso mi sembra che si è spostato da lì. Invece di essere lì dove era, ci sarà ancora, mi pare che si è spostato a Pretanieta, vicino dove c'è il coso dell'asta giudiziaria, come si chiama, in Chivi, per andare verso il cane, Pretanieta la parte per uscire per cane, che lì mi sembra che si è spostato adesso, TEC mi fa una cosa, quelle macchine verdi, TEC, non mi ricordo come c'è scritto, quelle macchine verdi, non ho mai visto qua, si fanno le bibite. Sì, no, ma Troffa c'è lì a San Semplicio, c'è un capannone enorme all'interno lì di San Semplicio. Ma non so se ancora c'è lui lì, che era lì il deposito, capito? E abbiamo fatto la società, era la WSPA, e c'era Pupo Troffa e Peppino Terruscio. Capite, questa società che figurava era la WSPA, facevano tutto l'estero, non solo l'Italia, faceva anche l'estero, i rimorchi ne avevano infinità, c'erano 87 trattori, c'era il traghetto per i rimorchi suoi, tutti quei magari per la partita, mi staccava pure la finale, c'era per la partita il traghetto suo funzionava per i rimorchi. E poi mi aveva fallito perché poi chi rappresentava era Doppio, non Pupo Troffa né Terruso, se lo ci dirigisce, compreso. Nonostante che io ho sempre un buon rapporto con Coso, non con Pupo Troffa, con Peppino Terruso, che è compare, dai, è compare di Doppio. Hanno sempre avuto un buon rapporto con Terruso. Nonostante quello, perché lui era più piccolo di Terruso all'epoca. Era una piccola cosa nella società, era Peppino Terruso, compreso. Ma può essere che ancora vivo, io l'ho visto, forse che ancora vivo Peppino. Sì, io ho visto una chitarra io, ma settimana fa l'ho visto che siamo andati a caricare un rimorchio di Gran Turco, vabbè, è vivo ancora. C'è un'azienda lì agricola, la zona di Tronco Reale, non si chiama Banca, vicino alle carceri lì. Allora c'era lui, perché mi ha guardato e lui mi ha salutato, però non era sicuro, anch'io sono rimasto un po' così. Allora c'era lui, c'è un Mercedes grigio, ha un Mercedes grigio, c'è lui. Io stavo proprio uscendo da Tronco Reale, ho fatto il giro verso Coso Bancario e stavo scendendo giù al trattamento fanghi e l'ho crociato a lui. Volevo salutare, ma non era sicuro che lui, neanche io, voleva azzardarmi. Ha detto che sta male, ma lo puoi dire in bagno, invece è vivo, ma è sempre bello a letto. telefono, il telefono dove te lo scusa? Oh, i messaggi che sono arrivati al tuo computer, c'è cioè mia figlia qua, su Facebook, è sempre ridente, che carità è. Che scrivi, hai detto computer pure ridere, non ti ho pensato che scrivi. Ha scritto un coso. L'ho tolto. No. Salgo alle 11:30, anche mezzogiorno qua parto. Ma non so, se lo fate prima di quell'ora lì, mi va bene, capito? Non c'è mezzo oggi via, su via, sono già finito, sono alle 7, faccio un controllo, infatti l'ho messo vicino alla porta, così mi metto in macchina. Sì, già me l'ha detto Pinuccio. No, non mi ha avvisato, è passato, è venuto più tardi e dico avevo già pranzato, è venuto più delle 2 e mi ha chiamato, non sapevo manco che ci fosse, erano più delle 2, avevo già pranzato. Ha detto se mi chiamavi, aveva finito di pranzare, avevo io. Ha detto se mi chiamavi ti aspettavo, se tu mi facevo lo squillo prima l'aspettavo, invece mi ha chiamato le 2 passate. Capito? Niente, stavo finito di pranzare, già finito avresti. Ah, no, un attimo che sono andato a pizza, allora sono finita. Si è mangiato, solo non ho potuto fare compagnia, avevo già pranzato io. Si è mangiato una cosa al volo e poi è partito. Sono arrivato stamattina io, non siamo visti. È stato trattino, non lo so. Dipende da come mi gira. E la giri che devo fare. Se no io a 1:30 avevo già finito, capito? Passavo a mia telefonasse e saremmo andati magari da Marcello alle vele, l'avremmo chiamato, ci avevo mangiato una cosa, ma prima volta ho andato un principio. Ci avevo mangiato una cosa di da Marcello alle vele, un caffè, e poi sarebbe partito tranquillo. Invece ogni volta che viene sempre urli urla. Stamattina mi sono fatto dare quella la pezza grande come voleva Gabriele e niente, abbiamo preso il caffè e 2 chiacchiere, siamo rimasti dalle 7 alle 7:30, 7:30, 8:20 per quelle 8 non c'era un appuntamento, già sono arrivato che erano le 8:10, 8:15 nulla, ho sistemato tutte le cose, poi mi ho fatto tutto il giro fino a Martis. Sono entrato in 1:30. Vabbè, sempre da farci. Tutto qua. Vai Gigi, adesso mezzanotte meno 20. Io ti saluto, dai. E domani tu magari ti alzi un po' più tardi, riposati. Io domani mattina 6:30. Alle 7 vorrò prendere a Gabriele. Prendiamo il caffè Piazza dei Segni. E poi facciamo un girettino e faccio un colpo di telefono. Io penso per le 10:30 di essere già a Sassi. Non ci sono problemi. Comunque, se tardo ti avviso così non mi aspetti. Va bene. È positivo, fino a mezzogiorno mi posso trattenere, dai. Fino a mezzogiorno, ma non oltre, che poi devo salire. Fino a mezzogiorno mi posso trattenere. Non oltre, però. No, non ti preoccupare, ti ho detto quell'ora io sono, ti ho detto io massimo per le 10:30 sono a Sassi, e sono già da te, massimo proprio se mai andare 10:30 o più tardi, come l'altro giorno, devo solo compilare i registri di conduzione, basta, quindi sono 5 impianti, poi ci metto a vedere tutto, le 7, mezz'ora impianto, 10:30 sono già di ritorno, non ti preoccupare. Visto l'ora nel caso Antonio Brode. Basta. Un saluto lui, ci sentiamo domani mattina allora, ok? Se ti dovesse chiamare Pinuccio, diglielo e ci vediamo. Via. Ciao, ciao Brody, buonanotte, domani, ciao. Ciao, ciao, ciao lui. Ciao a tutte e due, buonanotte, ciao. Ciao Antonio Brode, tanto so che vi in ascolto. La televisione mi passano 10 minuti lì e sono a Caffao. Savi Roger, siete una buona compagnia, dai. Ciao ciao. Ciao. Brecco? Il brecco. Buonasera a lei. Buonasera a voi signorina. Sappia comunque che il brecco si fa nel momento in cui il canale è occupato, nel momento in cui è libero si può entrare direttamente. No, l'ho fatto apposta io, comunque stavo ascoltando. Roger, tutto bene? E niente in ordine. Santa. Oggi la giornata. Hai visto che bella giornata di sole che c'era? E oggi sì, ma purtroppo non sono andata al mare. No, neanche io, ma non direi purtroppo, stavo facendo altro di più interessante, nel senso che per non essere di meno alla sua metà, mi sono messo nella condizione di mettermi l'apparato in barra mobile, dai. Ah ecco, quindi lei era geloso, quindi ha voluto metterselo anche lei nella macchina. Per dire quasi invidioso. E la tua metà dov'è? Guarda, è sparito, mi ha detto vengo fra 5 minuti e non l'ho visto più. Beh, capita anche quello. L'importante è che non sia andato a comprare le sigarette. È sempre. Ma sai che succede questo, noi maschietti abbiamo bisogno un attimino di una finta libertà, di credere che siamo falsamente liberi, quindi facciamo queste cose, ma più che altro perché troviamo amici cattivi che ci inducono nella cattiva strada, quelli che vengono chiamati lucignoli, capito? Non perché siete legati, non è detto che non siete liberi. Va bene. Ah, sì, sì, indubbiamente, però ci piace ridiventare ragazzini, capito, facendo queste cose, ma cose più che lecite, anzi. Se dice 5 minuti e torna dopo un'ora o anche due, è più che plausibile. Io di solito torno il giorno dopo. Se lui torna fra 2 ore non importa, ma se tu torni dopo il giorno dopo è un problema. È possibile che lo sia, ma... E quindi niente male. Purtroppo no, niente a mare. E oggi che cos'era quella festa che c'era oggi? Ma poi ci siete andati? No, era una cosa tutta tra di loro, sono rimasti al campo, hanno mangiato nel piccolo ristorante e sono rimasti tutti lì. Infatti mi sa che verso le 9 stavano andando tutti via. Dito, quindi non c'è andato Antonello? No, no, non è andato né io né lui, la verità. Mai niente a mare, mi stavi dicendo, se posso. A me il mare non piace, perché sono bianca come un lenzuolo. Quindi già se mi metto io in costume, già il mare direbbe, oddio santo, scapperebbe lui. Il sole non so se ci rimarrebbe, perché ci vorrebbe tanto ad abbronzare me, e poi perché a me piace più la montagna. Allora bisogna chiedere al Gigi Vulcano di cambiare... di ribattezzarti raggio di luna, non raggio di sole. Questo è vero, perché il sole d'accordo dopo me non ci va. Quindi no, dal come hai detto purtroppo sembrava avessi voglia appunto di andare al mare, qualcosa te l'avessi impedito, invece se dici purtroppo avresti dovuto dire meno male. Purtroppo sai perché? Perché se io vado al mare purtroppo rientro con la febbre. No, è capito anche a me, se sto troppo al sole. Ma basta basta che mi girino, non c'è problema, l'importante è cucirsi prima da una parte, quando sei ben abbrustolita dall'altra, va bene così. Per me cosa che sono ad agosto praticamente. Sì, come ti hai detto? Torni a casa che sono una ragosta praticamente. Non è successo solo una volta, sì, ma perché mi addormento, capito? La rianimare scatena l'aria, il sole, la melanina, che ti mette nella condizione davvero di conciliarti il sonno, perché ti rimette a posto i bioritmi e quindi ti addormenti. È normale, il rumore della risacca, se non ci sono bambini intorno, basta. Male è troppo rilassante, poi diventa arrivi a casa e sei più stanca di prima. È meglio la montagna, secondo me, più rilassante. Poi in montagna ci abitate, quindi sicuramente. Ma di solito dove andate al mare? No, io di solito non vado al mare. Mio marito va o la Pelosa o non so dove con la bambina, però io non vado al mare con lui, va solo lui. È vero, l'ultima volta sì, l'ho sentito che stava portando la bambina al mare. È vero, è vero. Allora questo calice di stelle lo guardiamo? Come sarebbe? Domani o dopodomani? Sia dopodomani, o forse addirittura il 9. Il 9. Il 7. 7. Giorno di venire a vedere le stelle? Può sentire il discorso del fatto lunare, perché più a me mi interessa più sentire, perché è abbastanza interessante come argomento e come scena, è bellissima. Adesso l'avevo già visto a Usilo, l'avevano fatto. Più che altro ci sono i racconti mitologici e la spiegazione di come appunto a livello mitologico venivano dati i nomi alle costellazioni, dai. Sì, è vero, è molto interessante com'è, ma non lo so, sì, penso di sì, perché intanto è vicino a casa, non è che sia lontano, quindi penso che ci vada. No, no, bello, bello, è un bello spettacolo, soprattutto perché parte dalla mitologia greca, hai capito, spiega, dà tutte le spiegazioni, soprattutto... di memoria, non una cosa è l'astrologia e una cosa è l'astronomia, ecco, astrologica, non solo astronomica, cioè unisce l'astrologia all'astronomia, sai qual è la differenza? Mi sa secondo me nessuna delle due, non c'è nessuna differenza secondo me. Una astrologia parla del pianeti e l'altra parla delle stelle. È esattamente così. Allora, l'astronomia è lo studio dei pianeti, mentre invece l'astrologia è l'interpretazione in base alla disposizione dei pianeti degli avvenimenti futuri. Ci dovrebbero raccontare come sarà il futuro in avanti. Quando ti fanno l'oroscopo è la lettura astrologica dell'astronomia. Io non ci ho mai creduto all'oroscopo, la verità, anche se certe volte ci ho sempre azzeccato comunque. Parte dal presupposto che sicuramente i pianeti, a seconda della disposizione che hanno un'influenza su quello che è il nostro umore, su quello che possono essere gli avvenimenti, però a livello geologico, nel senso per quanto riguarda innalzamento e abbassamento della marea e tutta una serie di altre cose, quindi influiscono anche sul nostro carattere. Però credere che a seconda di come si dispongono le cose avverranno determinate situazioni, no, no, per dire il futuro mi sembra un po' esagerato. È rientrata la mia. Aspetta, nel sistema vengo. Hai detto una cosa sbagliata, non lo dovevi dire, è rientrato. Che cosa ho detto? Non combinare con l'altro. Sentilo. Vedi anche dove abito, così mi metto la faccia in culo. Cosa hai combinato? Cosa hai combinato? Combinato. E chi è il bellato da combinato? È combinato. Hello. Dimmi, buonasera. Buonasera a voi. Da solo? Non c'è nessun altro da te? Tipo nessun altro in prima linea, sicuramente in ascolto. Ah, ecco, buona, se no sono sceso io a prendermi il veleno, sono salito a casa. Poi oggi, ma dicevo alla tua metà che se i 5 minuti delle sigarette dura un'ora, va bene. Io di solito torno il giorno dopo. No, no, no, è tanto di scendere giù, puoi salire, è pratico, una cosa e l'altra. Ma ti ha detto chi è? No, perché c'era un amico giù di sempre, ma non ne voleva verità, erano giù al bar, non ne voleva stare lì a bere il fresco, a bere il birra, non è giornata oggi. Cosa, di prendere il fresco o di bere birra? Tutti e due, non volevo stare con la signora da sola, dunque ho preferito rientrare a casa. È un grande, stavo chiedendo appunto come fosse andata la festa dei camionisti, ma di quelli, però mi hanno detto che appunto sono arrivati poco e ciccia, quindi non ci siete andati. La verità no, perché a quanto pare mi sono informato, era diciamo una cosa, per virgolette, una loro festa, la come dobbiamo solamente per loro, niente di particolare, ecco. Infatti non c'era niente neanche nel cartellone, così. E dunque ha lasciato perdere. Anzi, l'ha detto anche abbastanza ubriaco, facendo casino in paese, a manetta, con questi bestioni. E poi, niente di particolare, la verità. E tu la serata come l'hai passata? Passata al... siccome non devo essere da meno di te, l'ho passata piazzandomi l'apparato in macchina. Bene. Ah, ecco. Diciamo quello... aspetta, quello senza display. Senza display, beh, quello con display se lo piazza in macchina e scappo. No, quello che non va solo il display, quello semplice, là, alla fine che non ti indica, diciamo, il segnale in arrivo, come che modello era quello, l'Intec. Però c'è quello piccolino, sì. E poi sono passato dall'amore tuo, capito? Davvero? Avete organizzato qualcosa per l'associazione? Negativo, stavamo discutendo con Pomponio, niente di che, sono passato un attimino per fargli uno scherzo, per farmi dare una lettura del segnale, ero sotto casa sua, gli ho spaccato lo smitter. Allegria, già va bene. No, niente, poi ti devo raccontare una cosettina che bisogna valutare, discutiamo insieme, dai, in verticale. Se vuoi ti posso anche fare una passa. Come vuole, per noi niente di particolare, comunque secondo me è una cosa, diciamo, da evitare immediatamente per vari motivi, la verità, tutto lì. Comunque quella persona l'hai sentita? Mi è capitato di sentirla, cioè o meglio, mi è capitato di sentirla, sì. Hai detto niente, no, di quello che ti ho chiesto? Oh, no, no, no, no. Penso di incontrarla poi in verticale. Ecco, fammi sapere, poi se è negativa, da passare sulla pazienza. Lascio stare, là, poi vedrà lui tutto lì. Comunque, notizie per l'associazione, qualcosa di positivo di nuovo, per tenermi un po' informato, mi rompo il filo così, Patrick. Ti faccio una passa e ti dico. Perfetto, va benissimo. Vado adesso. Dimmi, non ti ho capito. Sto chiamando adesso. E io, nota. E adesso dove sei? E di nuovo mettere a ticchiare in modo che mi svegli. Mi sono messo a gridare. Questo ha toccato a Patrizia. Questo va bene, dai. Hai fatto regolare tu a Patrizia il microfono. Perché sicuramente ha una voce più suadente della tua, quindi un attimino o alza la voce o alza il mic gain. Fatti questa faccia tua. Capito. Hai capito? Lui è convinto che ci sono, che io gioco con il suo apparato, invece non è vero. Sei tu che mi hai spiegato come dovevo fare, giusto? Assolutamente sì. Assolutamente yes. Quindi preparatevi per domani, perché poi scendiamo a casa a Pomponio a mangiare sardine. Andiamo. Direi che si può fare prima e dopodiché, e fra l'altro oggi ho visto Simona che mi ha salutato al terrazzino e quindi pace fatta, già mi fa entrare a casa, non c'è problema, però niente, quindi possiamo andare lì, arrostirgli la casa e dopodiché ce ne andiamo, chiaramente scuotendoci le briciole di dosso e salendo su a vedere lo spettacolo. Ah, problemi non ce ne sono, solo bisogna chiedere, diciamo, al padrone di casa quando si può fare. No, c'è il gusto. Invece gli arrivi già col pescio. E lui deve solo accendere la graviglia. Però non c'è problema, dimmi quando lo vuoi fare, ci organizziamo, dai. Quando lo vuoi fare? Domani, e non lo compri il pesce domani. Al mercato poi mi dicono di no, che il mercato è chiuso. È chiuso? Dov'è domenica? E non si fa a scuola. No, allora non si può fare. Ah, ecco, beh. Conviene là, sabato prossimo. Forse mi dice la regia che a Sorso sono aperti, forse. Sorso? C'è il mercato a Sorso del pesce, ma sei sicuro? E di quanti giorni è quel pesce lì fermo? Supermercato aperto anche a Porto Torres. Capito. E allora, se non ricordo male, e non voglio dire baggianate, dovrebbe esserci anche uno spin nella zona industriale dove c'è Cifadda. Dovrebbe essere aperto anche di domenica mattina, sì, se non ricordo male, sì. Bisogna vedere il pesce, dovrebbe esserci l'avanzo di oggi alla fine, ecco. Ma se ben conservato potrebbe anche andare. Comunque alla fine come comprare pesce, se non ricordo male avevo detto anche, c'era anche il pane fresco. Dunque pesce, pane, vino e del carbone e poi se ne era a casa sua sperando che ci sia. Se no, intanto c'è la chiave sotto lo zermino, entriamo, cuciniamo, incanesiniamo a casa e poi ce ne andiamo. Ma io direi, se non vuoi andare sul pesce fresco, si può andare su quello surgelato, ci facciamo i gamberoni e una pasta asciutta. A me va benissimo, non c'è nessun problema, gamberoni arrosto, va bene. Perché no? E allora, dimmi tu cosa facciamo domani allora, dai. Dammi il tempo di sentirlo, perché magari c'è la possibilità, capito, che la chiave non ci sia sotto lo zermino perché sia già entrato qualcun altro e si stia organizzando una cena e magari troviamo occupato. Se tu hai il numero di telefono, chiamalo adesso, lo butti dal letto. Sto dormendo. Poi Simona mi gonfia di botte, no. Ah, le faccio due risate, prima chiamarlo a vedere, strano, perché a quest'ora è sempre sveglio lui. Voi te lo spedisco e lo chiami tu. Cazzo, cazzi miei sono, solo che non fa dare. Lo chiamo. Certo che lo devi chiamare, scusa, è al pari di chiamarlo all'apparato, se non vuole essere disturbato lo spegni. Poi metti in dubbio, perché non lo chiami tu invece di spiegare il mio numero di telefono? No, perché io sono timido a quest'ora. Ah, ecco, io ci sono uno stronzo a quest'ora. Si vede, sei già sei croccante, dai, chiamalo tu che mi chiami e mi viene da ridere. Allora, per favore, mandami il numero di telefono via SMS. Lo dirò, glielo. Vediamo cosa ne si fuori, dai. Aspettala tutte e due, ma cosa state combinando? Quella ci vincia, eh. Poi intanto sta dormendo, è qua. Aspetta un attimino, allora. Aspetta un attimo, c'è la doppia. Allora, vediamo dove lo troviamo. Sotto rubrica pompogno. Come ci stai o ci sei? Aspetta. Ok. Aspetta un attimo che scopro come te lo posso inviare. Aspetta, davvero, ma siete pazzi tutti e due. Domani è domenica ed è tutto chiuso, loro vogliono stare in pace. Adesso magari lui starà anche facendo cose con la sua amata, ma perché la dovete ritumbare? Aspetta, sta arrivando, eh. Antonello Laus, Antonello Ussi, eccoci qua. Ok. Invio. Guarda che dovrebbe arrivare tra 3, 2. Levato. Ah va, allora vediamo un po' com'è la situazione. Dirglielo. No. Allora aspetta, te lo dico subito, vediamo un po'. No, sbagliato. Porta in arrivo. Nessun soggetto. La grode paravi paravà. Progetto vuoto, dimensione 1 KB, opzioni. Ma qui non è proprietà, download, cos'è questa storia? Cosa mi hai mandato? Scarica, sì. download del messaggio in arrivo, ah, devo pure scaricarlo, ma come funziona questa storia? Allora vediamo un po', ma cos'è? No, tu non... allora download, ok, scarica, sì, allora download il messaggio non riuscito, non ti conviene scriverlo direttamente, me lo mandi. Ma infatti faccio così, evidentemente non li puoi accedere, aspetta un attimo. Te lo sto mandando, eh. Che tu mandi via a fare la guerra mentre tu stai dietro. Aspetta. Fatto. Gli andiamo a controllare, sempre posto in arrivo. Eccolo qua, sì. Adesso provo a chiamarlo. Tu è un pincher? Pincher? Perché chi ce l'ha? Cucciolo. Però c'ha 2 anni e mezzo, ma è piccolina, piccolina e nana. Scusa, ma perché lo puoi dare? No, è femminuccia, sto cercando il maschietto, io in paese qua non c'è il maschietto per lei. Ma i cuccioli uno lo prendiamo. Ma è stato la do, ma non riesco a trovare il maschio. Interesso io tramite un'amica che fa la veterinaria. Cavo, dille che c'ho un pincher femmina, quasi 2 anni e mezzo. Poverina, mi ha già saltato 2 calorie, ma adesso sta male. Che devo fare? Il telefono è spento. È furbo, furbo come un cervo. Ascolti, io faccio così. Domani mattina, verso, tanto io sveglio sempre presto, verso le 6 del mattino, verso le 8:30, noi ve lo chiamo. Se lui è d'accordo, io ti chiamo e vediamo un po' di organizzare la situazione. Dai, scappa. Comunque domani non hai impegni, no? Ovviamente no. Ora vedo un po' io domani, ti muovo un po' le acque, dai, il numero ce l'ho. No. Adesso poi per chiamare comunque spento il telefono. Bene. Va bene, dai, fammi la barracuda. Vi lascio che vado a fare un 144 di prepotenza. È d'accordissimo, tu domani a che ora ti svegli? Di solito la domenica mi sveglio alle 7:30. Perfetto, dai, non c'è nessun problema. Dunque, appena so una risposta definitiva, vediamo di organizzare, scendere a Sassa e cercare il mangio. Poi gliela sporchiamo noi a casa, vai tranquillo. Problema. L'importante è portare fame e mangiare. Perfetto, quello già. L'appetito non mi manca, vai tranquillo. Va bene. Ci organizziamo domani allora, vai, buonanotte e divertiti. Buonanotte a te a 50, mi raccomando. Buonanotte anche a te e sogni d'oro e copri bene, serve per l'umidità. Vai di Roger, grazie Radio di Solo e a te presto. Buonanotte, ciao ciao. Buonanotte, ciao ciao. Attento Antonio, attento se mi copri. Antonio, ci sei? Da c'è. Ma l'hai chiuso? Faccio un radioascolto di rilassamento, dilla. Allora ti devi addormentare, se non ti rompo le palle, non è un problema. Antonio. Bravo, spegni. No, lo spegni tu. Come fai a dormire con questo rumore di sottofondo? Bene, adesso spengo, ciao. Ciao Antonio, lo lascio acceso. altro qua. Qualcuno c'è.